Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Chiudono i battenti delle scuole il 26 marzo per le lezioni e non si capisce perché i seggi debbano essere nelle scuole e poi sempre le stesse scuole, non negli uffici pubblici o nelle caserme. Si riapre il 12 aprile dopo le vacanze di Pasqua. È quello che accade in molte regioni, in molte città, ad esempio anche a Milano. E i genitori sono disperati, come è ovvio. Chi non ha nonni e babysitter ma deve comunque andare al lavoro, dove li mette questi benedetti figli? Qualche scuola comincia a muoversi, qualche preside ha fatto marcia indietro e ha ridotto le vacanze di Pasqua. A Milano scuola aperta tutti i giorni con lo stesso orario dei giorni normali alla primaria Cadorna, quella del record di immigrati e della lingua tagliata da una maestra. Una cooperativa infatti pagata miracolosamente, davvero miracolosamente dalla scuola e con un contributo delle famiglie di soli 12 euro al giorno, i bambini vanno a scuola, studiano, fanno corsi di teatro e pittura. Sentiamo come è possibile questo miracolo dal preside Giovanni Del Bene. Avendo notato il calendario scolastico e avendo visto la data delle elezioni regionali, in realtà si agganciano al problema del primo aprile, avendo noi una serie di insegnanti che abitano ovviamente nel meridione, che devono andare giù per le votazioni. Di fatto con le vacanze pasquali si andava al 10 di aprile, quindi dal 28 al 10 ci sembrava un periodo estremamente lungo e scandaloso nei confronti della popolazione che lavora e che ha dei bambini piccolissimi da gestire. Questo è un problema che abbiamo cercato di risolvere. Poi l'altro problema è strettamente legato al creare proprio, io ci tengo tantissimo come dirigente, ho un comprensivo di quasi 1000 bambini divisi in 3 istituti, per cui è un territorio che va da Piazzale Brescia a Milano fino a San Siro, creare proprio sul territorio la scuola intesa come luogo di sinergia sociale e di vera cultura. La vera cultura vuol dire lo scambio, no? Secondo noi l'integrazione, avendo anche alcuni bambini stranieri, avviene proprio dandosi una mano, proprio il termine giusto è proprio quello di darsi una mano. Quindi insomma, per venire incontro alle esigenze della famiglia, ma anche per creare, un'idea di scuola, aperta, ecco, aperta anche alla popolazione. Chiusa quando lo Stato dice che è chiusa, aperta quando lo Stato dice che è aperta, ma aperta quando la popolazione ne ha bisogno. E quindi a che cosa? Come una biblioteca, non so come dirle, no? Quindi è una situazione, come dire, di servizio reale sul territorio. E noi mamme le siamo molto grati, perché no, se fossero di più queste iniziative davvero verrebbero incontro alle nostre esigenze. Questo costa 12 euro al giorno per le famiglie, perché il resto delle spese per le pulizie tutti ce le metto io. Il discorso è che, dato che noi poi forniamo durante l'anno e facciamo altre iniziative, laboratori, danza, perché poi ho anche delle attività pomeridiane, oltre quelle statali, sempre pagate dalla scuola e con l'aiuto dei genitori extracurricolari, dove facciamo danza, teatro, musica dalle 4:30 in poi. No, per dimostrare che con pochi soldi una famiglia con, per dire, 10 euro al mese riesce ad avere una scuola di altissimo livello, certamente molto superiore ad una scuola privata. Senta, ma dove li trova i soldi, visto che tutte le scuole piangono miseria in questo periodo? Insomma, anch'io effetti... piango miseria, certo. In effetti le casse sono abbastanza vuote, dove li trova miseria. Questi soldi? No, io ho effettuato qualche piccolo risparmio e sono riuscito a fare questo. E poi ho fatto nascere un'assemblea legalmente, cioè una onlus, diciamo, proprio con tanto di contratto notarile, che è l'assemblea, come dire, l'associazione Cadorna, che è formata dai genitori ed è nata proprio per sostenere le attività didattiche del comprensivo e ci aiutano a pagare le attività che non riusciamo a, come dire, sostenere economicamente con i soldi che non ci dà lo Stato. Ecco, ma cosa faranno questi bambini dunque dalle 8:30 alle 16:30, che è esattamente l'orario scolastico, no? Sì, quindi... esatto, quindi prima di tutto faranno i compiti, ma poi per non annoiarsi troppo faranno giochi di ruolo, faranno ginnastica e quindi psicomotricità perché hanno la palestra a disposizione, faranno teatro, faranno laboratori di pittura. Quindi sarà davvero passare il tempo imparando ma anche divertendosi. Assolutamente, insomma. Sì, perché poi tutto avviene nel gruppo, perché sono bambini che in genere invece starebbero nelle giornate di vacanza con i genitori che lavorano, a quelli che va bene in casa con una babysitter. a quelli che va male in casa da soli o con qualche amico che si cura di loro. Insomma. Magari di fronte alla TV. Magari sempre di fronte alla TV. E saranno accuditi da una cooperativa, da una cooperativa, i ragazzi di una cooperativa. Da una cooperativa molto abile e quindi la cooperativa si è già interessata anche di recuperare per ogni singola classe il programma che stanno facendo in modo che loro rimangano agganciati comunque alle situazioni che ogni singolo bambino ha realmente da gestire a livello culturale didattico e manderanno i loro operatori. Contiamo di avere almeno un folto gruppo su due plessi, almeno una cinquantina di bambini sicuramente. Da chi la scuola la vive oggi e la fa anche progredire, come il preside della scuola di Via Dolci che abbiamo appena ascoltato, a chi ha fatto la storia della scuola nel passato. È uscito in questi giorni Storia e storie della scuola italiana, edito da Zanichelli. Un compendio davvero molto accurato, destinato a tutti gli appassionati e studiosi del tema. A scriverlo Nicola D'Amico. Sulla copertina del suo libro ci sono dei volti, volti noti, riconosco Gramsci, riconosco la Montessori, riconosco Don Bosco. Chi è la prima signora? Chi è la prima signora con il libro in mano? La figura centrale è Casati. Sì, e quella accanto? Quella accanto è una maestrina dalla penna rossa che illustra uno dei libri di cuore. Mentre invece l'ultima fotografia è quella di giovani italiani, diciamo così, e di giovani immigrati che oggi, la cui convivenza oggi è uno dei problemi più importanti della nostra scuola. Attenzione, non ho detto dei problemi più gravi, dei problemi più importanti. Infatti oggi lei lo rappresenta con due ragazzini, uno bianco, uno nero, che sono libri. Il vecchio italiano, anche se ha 10 anni, e il nuovo italiano, che è il ragazzo di colore. E infatti molte delle leggi, molte delle circolari di questo periodo riguardano proprio questa problematica, no? Pensiamo ad esempio ai tetti per gli studenti naturalmente, stranieri. Naturalmente, come dire, affrontati con una certa approssimazione. Ecco, dicevamo, si riconoscono dei volti noti e dei volti comunque che hanno fatto la storia del nostro paese e la storia scolastica del nostro paese. Vogliamo citarne qualcuno e raccontare perché sono stati così importanti? Beh, Casati, bene o male, si è tracciato i segni di una scuola di carattere nazionale. Poi Don Bosco è la persona stranissima che inserisce l'elemento religioso nella scuola dei poveri. Le scuole cattoliche erano state anche molte volte scuole d'élite, a parte le piccole scuolette dei parroci eccetera, ma Don Bosco affronta in maniera frontale, mi perdoni il bisticcio, il problema dell'educazione delle masse. Quindi sotto un altro profilo, se Casati è la scuola dell'élite, Don Bosco è la scuola professionale, è la scuola dei poveri. E qui a questo punto faccio un salto e mi ricollego a Gramsci. Gramsci, un apostolo dei lavoratori, dei problemi dei diritti dei lavoratori e dei poveri, tuttavia diffida delle scuole professionali. Cioè, stiamo attenti che non diventino dei ghetti, che aiutare i poveri non significa isolarli nelle scuole professionali, nelle scuole tecniche. Certo, non era questo l'intenzione di Don Bosco, tutt'altro. Ma Milani arriva e corregge. Dice, un momento, voi avete creduto di avere risolto il problema dell'alfabetizzazione dando tutto a tutti, cioè avendo creato questo grande supermercato che è la scuola media. Attenzione, non bisogna dare tutto a tutti. Quando il figlio del dottore, come lo chiama Milani, e il ragazzo proletario vanno nella stessa scuola, non hanno bisogno tutte delle stesse cose. Bisogna dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. E poi ci sono due donne in copertina del suo libro, una maestrina. La maestrina che è l'indice, è un omaggio a quello che è stato l'apporto femminile alla scuola italiana. La maestrina... Apporto che prosegue anche oggi, perché la classe insegnante è quasi esclusivamente femminile. Fino al punto che viene insinuato che manca nella scuola italiana la figura maschile, perché per le donne è stato, diciamo così, ha offerto la possibilità di essere mater et magistra, secondo l'enciclica, di essere madre e di essere maestra attraverso degli orari facilitati, attraverso degli orari limitati. Orari limitati che hanno portato a limitate retribuzioni. Ecco, l'altra figura è quella della Montessori. Che naturalmente, perché è stata così importante? Ma è stata importante perché ha introdotto la scienza nella pedagogia. Io non ho un'estrema simpatia per la Montessori, una donna abbastanza controversa, un po' religiosa, un po' laica, un po' autoritaria e un po' permissiva. È stata una grandissima figura perché ha tolto la pedagogia dalle mani degli impressionisti. La Montessori comincia ad occuparsi dei bambini ritardati, dei bambini con dei problemi psichici. Lei è un medico. Senta, per tornare invece ai nostri giorni, di che cosa avrebbe bisogno secondo lei la scuola oggi? Ma la scuola oggi ha bisogno di due cose. Innanzitutto di non essere noiosa. E qui quando io l'ho detto pubblicamente qualcuno si è risentito pensando che io dicessi che gli insegnanti sono noiosi. No, gli insegnanti non sono noiosi. È noioso il modo con cui sono costretti ad insegnare. Cioè sempre lezione frontale, nessun supporto direi alla loro professione, poi con davanti tutti alunni considerati alla pari come tasso di interesse verso le singole discipline. Quindi la scuola ha bisogno che con una riflessione che non c'è in questo momento, distratti come siamo verso la sistemazione dei licei, cose utili per carità, dietro la problematica dell'istruzione professionale statale sì, statale no, regionale sì, regionale no, la verità è che va rivoluzionato il sistema dell'insegnamento, nel senso che come diceva sempre il solito Don Milani, non bisogna dare 10 ore di matematica, 5 ore di matematica a tutti, ma bisogna dare 2 ore di matematica a tutti e poi le altre 3 farle fare a chi le vuol fare. È inutile fare studiare il piffero a 30 bambini, di cui 10 sono stonati e gli altri 20 invece sono portati anche ad una certa percezione dell'armonia. Fatela studiare di più a chi di più ha sensibilità in materia. E questa è una cosa. La seconda cosa l'abbiamo già detta. Non si può pretendere da una scuola pagata come è pagata e che ha in partenza la concorrenza delle imprese, non si può pretendere di avere una scuola mal pagata con degli giovani ingegneri, dei giovani matematici, dei giovani fisici che vengono a insegnare a scuola invece che andare nelle aziende, ma soprattutto non si può pagare di più per 20 ore la settimana, nelle aziende se ne fanno 40 di ore. È tutto per riascoltare questa puntata come tutte le altre di Obbligo di Frequenza. Potete andare sul sito di Radio 24. Noi ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12:45.